Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E siamo arrivati alla settimana numero 35 di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. Eclettica che già è cominciata ieri sotto forma di pillola, come ogni lunedì alle 10.55. Così si prosegue alle 10.55 tutti i giorni fino al venerdì. Se poi invece volete ascoltare le pillole in altro orario, sapete, come per l'Eclettica serale, che c'è a disposizione il podcasting. Ho qualche biglietto da regalarvi per serate che si terranno alla Casa 139, fra l'altro uno nei prossimissimi giorni, quindi solo per quanto riguarda questa sera c'è ancora questa disponibilità, ma più tardi sarò più preciso. Voglio partire subito con la trasmissione, ho così questa spinta interiore, quindi partiamo con gli Incipit, poi ci saranno anche i film a caratterizzare la trasmissione e ovviamente tanta, tanta musica. Usciti dalla lunga galleria di confine, si era già nel paese delle nevi. Il fondo della notte si tinse di bianco. Il treno si fermò alla stazione di scambio. Una giovane donna si alzò dal suo posto, dall'altro lato del corridoio centrale, e venne ad abbassare il finestrino accanto a Shinamura. Un'aria gelida di neve penetrò all'interno. La ragazza, sporgendosi più che poteva dal finestrino, gridò in lontananza: «Capostazione! Capostazione!» L'uomo, che avanzava lentamente nella neve con una lampada in mano, aveva la faccia avvolta dalla sciarpa fino al naso e un berretto di pelliccia che gli copriva le orecchie. Questo era l'incipit del Paese delle Nevi di Yasunari Kawabata. Very, very mad world. Eclettica. I'm flirting with the birds. I'm talking to the weeds. Look what you've done to me. I'm still dressed up from the night before. Soaking hose and an operation coat. And I feel like a queen at the bus stop on the street. Look what you've done. It's a beautiful morning and a good home, finer than the day before. The ants are crawling over my pants as if to say, l'avevo preannunciato in lista nera. Poi anche questa mattina chi fosse sintonizzato già ha avuto modo di sentire quel brano e anche la promessa che sarebbe stato un po' una sorta di commento ai titoli di testa della settimana di Eclettica. Infatti così è stato, andare a riprendere un brano che anni prima che Donnie Darko uscisse in Italia aveva tanto caratterizzato le playlist di Eclettica. Gary Jules, che ci ha fatto dimenticare come fosse nell'originale il brano dei Tears for Fears dal titolo Mad World, e noi ce lo siamo ascoltati in Eclettica. Mai mi stanco di ascoltare quel brano quanto mai mi stanco di vedere quel film. E poi per proseguire con la musica siamo andati a riprendere quello che è il nuovo disco Springtime Can Kill You per la Anti da parte di Jolly Holland con il brano Crush in the Ghetto. Abbiamo avuto quindi un inizio di settimana di Eclettica molto molto calmo. Io direi che c'è bisogno di ritirare un po' su il ritmo e quindi sono andato a riprendere il disco di quel gruppo col punto esclamativo. Sì, avete capito bene, i Volcano da Beautiful Caesar. Ci ascoltiamo Easy Does It. Yeah.

Not Just Words, questo è il titolo della canzone dei Black Heart Procession che ci stiamo ascoltando. Non è l'unica che ci siamo ascoltati, ma quella che ci ascoltiamo più spesso da The Spell, quello che è il nuovo disco per la band californiana. Vi avevo anticipato in inizio di trasmissione dell'esistenza di biglietti per quanto riguarda concerti. Beh, per uno dei due dovete sbrigarvi, sempre che state ascoltando nella diretta di lunedì 13, in quanto la sera successiva, ovvero sia mercoledì 14, alla casa 139 ci sarà la terza delle DVD recordings di questo mese di giugno, prima della chiusura, appunto qua in via Ripamonti a Milano, con Cesare Basile. Quindi se correte avrete la possibilità di andare a vedere questo concerto. Altrimenti, sempre come DVD recording, ne rimane ancora una per il 28 di giugno con Marco Parente. Queste sono le disponibilità attuali a giulio at radiorockfm.com. Per quanto riguarda il futuro, vi posso anticipare che nel mese di luglio ci saranno due date italiane dei Flaming Lips, rispettivamente a Ferrara e Roma. Non sono a portata di mano, penso, per la maggior parte di coloro che sono in questo momento all'ascolto, però visto che è estate, visto che ci si muove, comunque io ho a disposizione questi biglietti per Ferrara sotto le stelle e per Villa Ada il 1 e il 3 di luglio. Ma ancora non è giunto quel momento per vincere i biglietti dei Flaming Lips, però è giunto il momento di Thievery Corporation Versions, disco di remix dal quale ci siamo tanto ascoltati i Doors. E stiamo per cambiare registro, in quanto ci ascoltiamo un remix di una cover. La band francese Nouvelle Vague, tanto conosciuta per rifare con un tocco francese sì, ma molto brasiliano anche, grandi successi principalmente degli anni 80, qui rifanno i Public Image con la loro This Is Not A Love Song. così, eclettiche ed eclettici, siamo arrivati alla fine della prima delle quattro parti di Eclettica, quattro parti di 30 minuti ciascuna a costituire una settimana, in questo caso la numero 35 della stagione numero 12. Chiudiamo con note che ci fanno spostare dalla Francia di Nouvelle Vague agli Stati Uniti di Gel, pseudonimo dietro cui si nasconde un artista di pelle bianca. Questa è Sweet Cream in It. Eclettica. Fine della prima parte.